11 campioni, Crotone un sogno in più, la curva si innamora del cuore rosso blu. Quando giochi tu è un'emozione in più che ci regala.